Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il nome completo è ISO 37120-2014. È il capostipite, o meglio la prima arrivata di una nuova serie in via di sviluppo di standard internazionali che hanno l'obiettivo di incentivare un approccio integrato alla progettazione sostenibile degli ambienti urbani. Insomma, dopo le varie ISO 9000 dedicate alla qualità, le ISO 14000 dedicate all'ambiente, solo per citare le ISO più note, sono ora in arrivo dei nuovi standard che permetteranno di verificare il funzionamento delle strategie applicate ai centri urbani. Ne parliamo con Paolo Gianoglio, che è direttore generale di ICIM, che insomma è uno degli enti più importanti di certificazione in Italia, che è tornato a trovarci. Buonasera Gianoglio. Buonasera. Allora, insomma, che esigenza risponde questo nuovo filone di certificazioni che si apre con questa ISO 37120? Allora, la ISO 37120 in realtà non è ancora una norma certificabile, è una norma che invece ha l'obiettivo di fornire degli strumenti alle comunità per trovare una base comune di misurazione su quelli che sono degli indicatori che sempre più spesso vediamo come indicatori, diciamo, di qualità della vita in qualche modo, e che sono importanti nelle scelte strategiche che vengono fatte dai territori, ma poi spesso diventano anche occasioni di confronto tra situazioni diverse. Quindi per il momento è come se fossero state stabilite delle unità di misura, poi più avanti arriveranno altre ISO che, come dire, ci diranno meglio come usare queste unità. Questo per dire, siamo all'inizio di un percorso, no? Ecco, ci fai qualche esempio del tipo di misure che si fanno a questo punto? Sì, allora, gli indicatori sono divisi in famiglie che sono anche capitoli molto diversificati tra loro, che riguardano l'economia, la finanza, l'educazione, l'energia, l'ambiente, i rifiuti, la salute pubblica, i trasporti, molti capitoli, e gli indicatori sono gli indicatori che anche spesso siamo abituati a vedere tutto sommato, ma che qua vengono definiti in maniera assolutamente deterministica per tutti quanti. Quindi abbiamo dalla percentuale di popolazione in povertà piuttosto che percentuale di persone impiegate full time, o l'indice di disoccupazione giovanile per quello che riguarda per esempio tutta la parte economica. Per esempio in questo periodo si parla giustamente molto di disoccupazione, ma non so, in tutta Europa credo che misuriamo la disoccupazione in 27 modi diversi o qualcosa del genere. No? La norma ha l'obiettivo proprio di andare a definire quelli che sono i criteri per definire in maniera univoca e poter misurare, quindi confrontare tutti quanti lo stesso dato misurato allo stesso modo. Poi per l'energia, tra i dati interessanti per esempio il numero di interruzioni elettriche per cliente per anno, piuttosto che la percentuale di popolazione che accede in maniera autorizzata ai servizi elettrici, perché c'è anche poi Quell'altra, lo sappiamo bene. Dunque, mi pare di capire che un po' come tutti i sistemi ISO, poi questo non nasca per fare delle classifiche, però in compenso ultimamente di classifiche, no, se ne vedono tantissime, classifiche un po' strane, perché spesso il committente arriva al primo posto. Parlo di classifiche di città intelligenti, guarda caso. Ecco, forse almeno da questo punto di vista si potrà già utilizzare, no, questo tipo di norme ISO, per fare dei confronti ragionevoli. Sicuramente, qui ovviamente in questo momento è una norma volontaria, quindi è uno strumento che chi vorrà potrà utilizzare in modo volontario, ma se uno misura i dati nella propria comunità secondo questa norma sicuramente potrà confrontarli con altre situazioni analoghe che in altri territori fanno la stessa cosa. Non dobbiamo dimenticarci che questa cosa nasce come prima norma nell'ambito di un gruppo di norme che hanno l'obiettivo di stabilire lo sviluppo sostenibile sostanzialmente nelle comunità. Anzi, il titolo completo è sviluppo sostenibile e resilienza, che quindi la capacità delle comunità di seguire i cambiamenti. Poi, tipico delle ISO, non c'è un obiettivo da raggiungere, no? No, proprio perché l'obiettivo non sarebbe plausibile in uno standard internazionale in cui comunque si vanno a misurare situazioni estremamente diverse, perché i territori arrivano con storie diverse e anche con ambienti completamente diversi. La norma, l'obiettivo è proprio quello di dare un sistema di organizzazione, quindi armonizzare i processi con cui le comunità metropolitane orientano le loro politiche di sviluppo sostenibile. Tenete conto che la norma che appunto è stata appena pubblicata è la parte, diciamo, probabilmente più facile di un processo molto più complesso, che è quello di determinare le regole del gioco, in qualche modo i sistemi con cui si andranno a progettare le città. Grazie, grazie ancora Paolo Gianoglio. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.